24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, diciamo, per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. La linea che Renzi sta vigorosamente e con capacità di politico affermando, mi permetto di dire, è la linea del mio governo, adattata ad una situazione in cui l'emergenza finanziaria, per fortuna sua e nostra, non c'è più, e cioè mantenere disciplinati i conti, sì, e fare le riforme strutturali per la crescita, avendo voce in Europa per fare andare meglio la politica europea. E allora, anche Mario Monti sale sul carro del vincitore. Ho vinto io, praticamente, ha detto Mario Monti. Ho vinto io con la vittoria di Renzi. Cari ascoltatori, alle 6:33 minuti siamo qui. Sono incazzato come una biscia, ve lo dico subito, perché mi hanno consegnato i giornali alle 6:28. Sono andato in edicola a comprare Corriere della Sera, Repubblica della Disperazione. Da domani, se volete, pago anche per lavorare, eh? Pago anche per lavorare. 3,50 euro oggi già mi è costata la giornata. Più dei miei 2 eurini che ho in tasca. Ho dovuto spaccare il salvadanaio di mio figlio per aggiungere 1,50 euro e venire a lavorare. Va bene, ma non mi sto lamentando, sono proprio incazzato, ecco, sono incazzato. Va bene, comunque per rispetto vostro sono qui in onda, cari ascoltatori, alle 6:34 minuti, solo per rispetto vostro, solo per rispetto di Miriam Lucchetti in redazione e dell'alpino Peter Bescapè e dei miei ospiti, ovviamente. Dai, apriamo subito il Parlamento, forza! A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Quindi non chiedetemi i giornali di cosa parlano, Cioè ce ne ho qua, anzi li leggo, eccoli qua. Il giornale: Renzi e Alfano liberano migliaia di spacciatori. Così, un titolo che ho letto. Paolo Del Debbio, hai qualche giornale? Buongiorno, hai qualche giornale sotto mano per aiutarmi? La Nazione. La Nazione, ottimo, mi dice il titolo della Nazione che magari... Allora, La Nazione titola così, un attimo solo: multe UE, ecco la stangata. Oh, fantastico. Chiedo anche aiuto a Vladimir Luxuria. Buongiorno Vladimir, hai qualche giornale sotto mano? Intanto c'è la Minetti che ti ha offerto il caffè tutte le mattine, quindi almeno su quello hai risparmiato. Su quello sì, è vero. 3,50 meno 1 euro, torno a 2,50, e quindi va bene così. E comunque io c'ho internet, quindi qualsiasi cosa. Vabbè, ma i giornali di carta, io sono ancora vecchia maniera, di quelli legati ancora così, insomma, voglio leggere un po', sentire la carta, no? No, vabbè. Vabbè, niente, no, non hai un giornale, c'hai internet, non so. Se vuoi, sì. Vabbè. Allora, qualcosa si può fare. Allora, avete sentito, caro Del Debbio, anche Mario Monti sale sul carro del vincitore. Ormai non c'è più posto, ma da mo', Insomma, sai, quando il vento gira, diciamo, si mette il vento alle vele, come si dice, vero? E quindi Monti, ma poi Monti poteva salire sul carro di quasi tutti, perché ha fatto un po' di tutto, cioè il suo governo è sentito dire conti in regola, riforme, tutto, insomma. E quindi va bene, insomma, che vuoi fare? E il professor Monti si vede che non aveva più voglia di stare a bordo ciglio, salito. D'altronde devo dire, peraltro, gli elettori hanno capito questa cosa, infatti lo hanno premiato moltissimo alle ultime elezioni, devo dire che no, ha ottenuto, no, quanto ha ottenuto? 0,8, 0,7? Sì, 0,7 mi pare. Sì. 0,7. Per la verità non ha fatto neanche campagna elettorale, perché non l'ha visto. No, perché Monti, guarda, che è uno che scende dal carro prima che il carro vada a fuoco e sale sul carro quando è sicuro, cioè adesso è uscito dal suo carro con il momento decisiva, ha detto che lui in quel partito non ci si trovava più, ha fatto l'offesa e è andato via, intanto è vero che sul simbolo non c'era più, e ora dice bene di Renzi, quindi sale sull'altro carro. Sale sull'altro carro. È uno che di carri se ne intende. Se ne intende di carri, va bene, va bene. È un carrologo. Vladimir Luxura, non sei salita sul carro di Renzi fino a questo momento? No, non sono salita. Beh, è stato bello risentire Monti, sembrava veramente l'imitazione di Crozza, proprio un robot come parlava. Sì. Il primo caso in cui l'endorsement viene fatto dopo le elezioni da parte di Monti, che se è vero che anche le pulce hanno la tosse e che ormai per salvare Monti ci vuole solo il WWF, dall'altra c'è la chiara dimostrazione che moriremo tutti demorenziani, perché se anche Monti adesso dice che sta sul carro di Renzi, vuol dire che insomma il carro è quello lì. Il carro è quello, però è molto affollato, Allora, tra l'altro, che dire? Ma tra l'altro, ecco, Del Debbio, questo 40% può essere un problema per Renzi adesso? Oggi ho letto sul Corriere della Sera, quello che mi sono andato a comprare, che ci sono 5 aree adesso nel PD. Ci sono, dunque, vediamo se me ne ricordo, gli ex turchi, i renziani, ovviamente, l'area riformista, i cuperliani, e poi c'è i civatiani, ecco, queste sono le 5, cioè una roba da mal di testa solo a leggere il titolo. Potrebbe essere. Insomma, erano grosso modo quelle di prima. Sì, infatti, effettivamente. Però 40%. Insomma. Erano grosso modo quelle di prima, secondo me questi ora stanno anche buoni, però, nel senso che, voglio dire, poi alla fine pensa come. Cioè, quello che voglio dire è che nel mondo te puoi pensare ad averli. Di essere il migliore, di essere quello che ha ragione, eccetera, eccetera. Poi alla fine becca una stangata, becca un'altra stangata, becca una ciabattata. Uno dice: forse ho torto, o comunque ho ragione, ma non me la riconoscono, devo stare da parte. Poi, voglio dire, questa ha preso il 40%, ha vinto le primarie con insomma uno sfacelo di voti, e che ti piaccia o no, quella roba lì è quello che ha vinto. Certo. Gli altri illuminati si metteranno da parte. I partiti una volta funzionavano così, e quello che sembra ancora un partito dovrebbe funzionare così, no? Sentite Renzi, che ieri ha parlato alla direzione del PD, sentite. In questo scenario la capacità di poter nelle prossime ore e nei prossimi giorni, per quello che ci riguarda, avere la forza di non soltanto andare avanti, non soltanto lasciare ma raddoppiare. Ecco, questo tornando al mitico Mike Buongiorno, più che lasciare, come sempre alta filosofia culturale, più che lasciare è il momento di raddoppiare. L'alta filosofia culturale Vladimir Luxura di Renzi. Vabbè, alla fine poi i miti a cui si rifà sono quelli, no? Più o meno. Io su questo invece sono dalla parte di Renzi, perché per troppo tempo certi partiti hanno avuto quella puzza sotto al naso, tipica di chi ha, secondo me, l'alito cattivo, secondo il quale appunto certe cose, no, Renzi col giubbotto di pelle da amici, Renzi lo sfottevano perché aveva fatto, era stato da Mike Buongiorno, no, sì, la ruota della fortuna. Sì, sì, no. come no, la ruota della fortuna. Certo. Invece devo dire che quel cotè pop, sì, funziona. Di Renzi funziona. Allora, perché senti quest'altro coté pop di Renzi, senti. Una campagna di formazione politica individuando un numero fisso di persone, portandovi gli strumenti tradizionali della formazione politica, ma anche le serie TV americane. Ora so che dicendo una cosa del genere qualcuno si improvvisa, vedo Gentiloni mettersi le mani nei capelli. Le cioè, serie TV americane, imparare da lì anche, che, capito Vladimir? Le serie TV americane, non so quale adesso. Happy Days forse. House of Cards, eccolo lì il cultore. La roba. Beautiful. No, come Beautiful? No, ma Beautiful no, è troppo alto. No. Ci vuole, Io pensavo subito a Happy Days, no, Fonzi, vabbè. Happy Days. Però devo leggervi queste. Allora, leggo alcune delle dichiarazioni che Repubblica mette a pagina 3 di seguaci del partito UKIP, quelli che hanno fatto l'alleanza con Beppe Grillo. Allora, certi omosessuali preferiscono fare sesso con gli animali, Giulia Casper, poi si è dimessa dopo queste cose. Il legame tra omosessualità e pedofilia è così evidente che non vale neanche la pena di discuterne. Quello che mi disgusta degli omosessuali è la loro pretesa di essere considerati normali. Poi, non vorrei avere dei rumeni come vicini di casa, questo Nigel Farage, proprio il leader. Devo continuare? Del debbio, Xuria, del debbio, devo continuare? No, perché sono le 6:42. Sono le 6:42, possiamo anche fermarci. Oppure, certe persone hanno una tendenza naturale ad essere soggiogate fin dalla nascita, David Griffith riferito ai neri. Vladimir, ne ho letti alcuni un po'. No, ne aggiungo un'altra. Se vuoi te ne aggiungo un'altra. Cioè? E secondo Farage le donne dovrebbero rinunciare alla famiglia se vogliono lavorare, e quindi una donna che lavora non dovrebbe essere quella che chiede per esempio il permesso per la maternità. Sì, perché vanno contro la biologia. Sì, certo, come no. Grillo, che ha consultato prima di decidere di allearsi con Farage? Cioè, perché pare che non solo i suoi deputati non lo sapessero, ma questa famosa rete, questa rete, no? Sì. Che si invoca tanto. Chi ha consultato? Allora, lo chiediamo al più grande grillologo d'Italia, Paolo Del Debbio. Chi ha? Ha consultato Casaleggio, chi era in collegamento. No, vabbè. Chi era? No, come? E chi che consulta? Non lo so, avrà consultato anche Farage. No, chi era in collegamento... come dimostrò la notizia, che era in collegamento telepatico con, e quando dico patico voi capite cosa vuol dire, con appunto questo signore che ha detto a proposito dei negri appunto che certe ma non proprio lui Farage, è un altro alcune persone hanno una tendenza naturale a essere soggiogate fin dalla nascita, David Griffith. Perché non va 2-3 giorni a Harlem, lo dico, sì, lo gonfiano come un tamburo e così dopo vedrai che cambia idea. No. Fanno vedere chi è che si faceva soggiogare David Griffith. Come due gonfi, come due mongolfiere. Vabbè, insomma, comunque vi ricordo, volete ricordare i vostri profili Twitter così a favore di tutti i grillini che vi faranno passare una giornata molto allegra. Vladimir Luxuria, com'è? Sì, guardo volentieri, tanto sono abituato. Sì. Sono proprio immune a queste cose. Allora, il mio Twitter è @ Vladi Luxuria, e aggiungo, per essere insultata ancora di più, che quando io, nella tua trasmissione, tu ne sei testimone, caro Milan, ho detto che Casaleggio aveva lo sguardo di uno che ha appena fatto a pezzi. Sì. Che ti è successo? Qualcuno e che l'ha messo nel freezer. Sembra un serial killer americano con quel cappello. Persino il dossier loro mi ha dato ragione, perché hanno detto che effettivamente Casaleggio con quel cappellino è stato un po' inquietante. Ah, ecco. È un po' sfumata. Paolo Del Debbio, ricordiamo il profilo Twitter. Ce l'ho qui. Ah, no. Ce l'hai. No. Io lo seguo. Ma allora è un falso. No, non ce l'ho, è finto, è tutto finto quello che c'è. Ah, c'è un Paolo Del Debbio, è finto, anch'io lo seguo, è finto. Sì. No. E no. Anche Facebook è finto, ci sono fake le due. Ha distrutto un mito. Io seguivo tutti, defolloware tutti Paolo Del Debbio. Non ce l'ho. 24 mattino. La radio costa, grazie quando mi dici che la carta costa. Tutti gli articoli che tu dici da non leggere, io li vado a cercare e mi diverto molto. Beh, sono preoccupato perché ho sentito dire che Silvio ha l'acqua alla gola. Porco cane, se mi cade dai tacchi è finita. Alessandro Milan, chi è, come hai definito tu, un idiota, un imbecille che è andato a manifestare contro Mario Adinolfi? Non siamo tutti imbecilli, perché io comunque i miei diritti vengono negati da una vita, vivo con la mia compagna da 19 anni e non ho nessun diritto neanche di starle vicino in punto di morte. Ma come non sai chi è Marina Cicogna, l'amante della Florinda Bolkan? Renzi, devi abolire il diritto di sciopero di quegli stronzi ferrovieri! Ciao! Io darei un consiglio, ma di cuore, credimi, al direttore di Libero e dell'Unità, di andare a scrivere le avventure di Topolino, che secondo me avrebbe più successo, avrebbero, guarda, credimi. Io volevo bene al Grillo, nonostante qualche strillo, qualche furbine de guerre, ineggiante a Berlinguer. Mi sono chiesto comunismo o l'amato consumismo. Una cicala canta piano, consumiamo, consumiamo, che te frega, t'hai accorto? E non piangere sto morto, potevate fare il botto del rondano 48. Pesa ancora quella mano del padrone americano, non bastasse, boh, a sto desco mangia e beve anche il tedesco, forza Milan! Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, sì, devo tornare sulla questione Adinolfi, visto che tra l'altro approfitto qua a Vladimir Luxuria. Abbiamo fatto, ti ricordi che abbiamo fatto un dibattito sul suo libro, Voglio la mamma? Certo. Sì, ho detto imbecilli quelli che l'hanno contestato perché non lo volevano far parlare. Detto che io l'ho detto personalmente, molte delle tesi che Adinolfi scrive nel libro, ieri c'era qui Adinolfi, non le condivido, però... Insomma, però no, Voltaire insegna, Vladimir Voltaire insegna che bisogna fargliele dire, poi uno può contestare nel merito, come abbiamo fatto quel dibattito là. Ora dovrei leggervi un messaggio, Vladimir, sei pronta? Sì, sì. Non è di quelli teneri. Complimenti Milan, belle persone da intervistare la mattina, sarai mica Finocchio? Ecco. Sì, vedi che finalmente si è capito che l'omosessualità si trasmette anche per radio, ce lo voglio dire, attenzione, via etere, andranno via anche gli etero, lo dico subito. Vabbè, ridiamoci su, perché cosa vuoi fare, ridiamoci su. Paolo Del Debbio, che succede a Berlusconi? Non lo so, nel senso... No, come non lo so? No, ci sono dei processi in corso e quello è... La questione vabbè. Ma processi di che tipo? Processi politici, no? No, processi. Ah, processi. Il processo Rubi, no? Ah, vabbè. Che sia quello. Ah, no, ma che succede politicamente, insomma? Ma politicamente non succede niente, nel senso che lui su penso che tu continuino a dare un appoggio a Renzi su alcune riforme, come fanno a non farlo. Per il resto vedo che i toni della polemica nei confronti di Renzi non diminuiscono anche da parte di Brunetta, eccetera, quindi non so cosa vogliono fare politicamente. Non si sa, non si sa. Sono lì che ci pensano. Ci pensano. Sì. Hai citato Brunetta, devo per la vostra gioia farvi sentire il Brunetta del giorno, non si può andare avanti senza il Brunetta del giorno. Sentiamolo. L'abrogazione del reato di clandestinità, la sua trasformazione in sanzione amministrativa, ha di fatto prodotto l'effetto opposto, vale a dire ha fatto un effetto annuncio al contrario, venite, che si può. Venite a firmare, andate a firmare i referendum, ne parleremo alle 8.15, e Vladimir è andato a firmare i referendum per Forza Italia, quello per ripristinare il reato di clandestinità. No, della Lega. Sì, della Lega, certo, quelli della Lega, è andato per Forza Italia a firmare quelli della Lega. L'avevano fatto anche con Pannella, con il referendum di Pannella sul carcere, adesso lo fanno con i leghisti perché cercano... Sì, non hanno firmato quello per la prostituzione, ho come il sospetto che fosse un po'... mediaticamente poco, no, dico c'è anche quello che per regolamentare per le la prostituzione, tasse, no? Sì, per sì, le tassazioni. Quello Forza Italia non l'ha firmato, forse insomma non era proprio il caso di no, Vladimir. Non è. Beh, sì, insomma, sarebbe stato un po' vabbè, no, sì, non è il caso, è un po' imbarazzante visto tutto no, quello. No, non lo so. Però insomma, lo so. Boh. Che sicuramente, che tra l'altro sarebbe stato anche quello più giusto da firmare, secondo me. In linea di principio, dici. del Debbio, è così. Insomma. È andata via la linea, non ho sentito di no, più, le ripristiniamo queste case chiuse. Sì. Ah, le case chiuse parlavamo. No, sì. Sì, ripristiniamole, tanto ci sono già in Italia, cioè rendiamole legali, no? Ma perché non si fa? Non lo so perché non si fa, sono totalmente favorevole. Per i cattolici? Cioè, tra i cattolici ci sono molti frequentatori, eh? No, ho capito. No, vabbè, ma è noto, scusa. Vabbè, ho capito. No, ma scusa. Ma si fa, ma non si dice. Prima della Merlin, no? Che è del 58, è stata fatta il giorno della mia nascita, quindi voglio dire, è una cosa proprio il giorno stesso firmò. Per dire viene al mondo del Debbio, quindi aboliamo le case chiuse. Ottimo. No, questo faro, questa luce, eccetera, eccetera. E vabbè, detto questo, cioè ci andavano, no? Ci andavano tutti, no? Lì non è che ci andavano i comunisti, i laici, solo quelli del Partito d'Azione, no? Certo. Ci andavano anche buona parte dei democristiani. No, ma vorrei, no? Vorrei capire questo. Vladimir, non si fa per i cattolici, per la Chiesa? Perché non si? Perché la gente mediamente è abbastanza favorevole. Beh, sicuramente, diciamo così, gli alti vertici ecclesiastici, il Vaticano è contrario a legalizzare, anche se poi già ci sono, basta comprare qualsiasi giornale, su internet, insomma, gente che esercita. Ci sono altri problemi invece che... Sì. Per esempio, se due donne insieme decidono di gestire una casa, potrebbero essere accusata una del favoreggiamento dell'altra, no? Quindi questo è il problema, non si può pubblicizzare secondo questa legge. Io non sarei per il ritorno alla situazione che c'era prima della legge Merlin, perché le prostitute non avevano nessun diritto civile, non potevano fare assolutamente nulla. Però sicuramente, insomma, si può pensare alla tassazione, a considerare, insomma, le prostitute come lavoratrici del sesso, che hanno dei diritti ma hanno anche dei doveri. E va bene, potrebbe essere una soluzione. Comunque ne parleremo di questi referendum leghisti alle 8:15. Ringrazio Vladimir Luxura e Paolo Del Debbio. Vado a leggere i giornali che finalmente mi sono stati consegnati. Grazie. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo dei referendum che la Lega sta portando avanti. In particolare ci concentreremo su due referendum, quelli sull'immigrazione, no? Uno che vuole ripristinare il reato di clandestinità, ieri è stato firmato anche da Forza Italia, e uno che vuole impedire i concorsi pubblici agli extracomunitari, limitarli agli italiani. C'è anche il referendum per ripristinare la prostituzione, renderla legale, il referendum per abolire le prefetture, insomma li citeremo, poi ci concentreremo ovviamente su un paio di questi e lo faremo con Nicola Molteni, onorevole della Lega, e così come sarà nostro ospite l'onorevole del PD Khalid Shaukhi. Questo dalle 8:15. Intanto andiamo a sfogliare i giornali. In questo venerdì 30 maggio i titoli, il Sole 24 Ore apre così: costruire un'Italia nuova priorità, crescita e lavoro, e l'assemblea di Confindustria, sono le parole del presidente Giorgio Squinzi. Anche per la Stampa: Confindustria a Renzi, ai voti, non deluda. In qualche modo sul Messaggero c'è un titolo di prima pagina che suona già come una prima risposta, perché è un'anticipazione del Messaggero: un decreto taglia burocrazia, arriva Italia semplice, forse verrà chiamato così, norme semplificate per imprese e servizi, 2-3 scadenze fiscali. Poi la politica e ancora il Movimento 5 Stelle e le polemiche dopo il voto europeo. Al centro dei giornali, il Corriere della Sera: accuse e sospetti tra i 5 Stelle. Per Repubblica invece: così abbiamo perso, i 5 Stelle contro Grillo, Renzi campierò il PD. Per il Fatto Quotidiano: flop e Farage, il dossier anti-Grillo spacca il Movimento 5 Stelle. Per l'Unità: riforme e lavoro entro l'estate, questo è il titolo di prima pagina, mentre Libero: i volti nuovi di Forza Italia, anche il centrodestra in grave difficoltà dopo le elezioni. Questi alcuni dei titoli

l'ha assunsi come deputato. Io sono presidente dell'osservatorio parlamentare per il turismo, pagavo io un contrattino che mi sono accollato, nulla di trascendentale, 1.000 euro al mese. Sono una persona corretta e sono stato con Scajola per 15 anni. Se sono amico di una persona, lo sono nella buona e nella cattiva sorte. Per cui ho fatto un favore a Scajola. Se mi chiama un amico e mi dice c'è una persona in difficoltà, dai, aiutiamola. Manco sapevo bene chi era, io lo faccio. A sue spese l'ha fatto, mi potrò permettere di caricarmi 1.000 euro al mese. Il contrattino, come lo chiama Brignani, è durato 6 mesi, da settembre scorso a marzo 2014. Quindi, mentre Matacena era in piena latitanza, sì, ma onestamente non sapevo di questo sfondo. Non sapevo di questo sfondo. Ma perché pagava sua moglie per non farle fare nulla? Doveva fare qualcosina. Parliamo di contrattini a progetto. Si potrà aiutare una persona in difficoltà a proprie spese? Insomma, qualcosina, contrattini per la moglie di Matacena, parla così Ignazio Abrignani, onorevole. Va bene, siamo al momento conclusivo e quando siamo al momento conclusivo arriva il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Come sempre a mio insindacabile giudizio vince anche oggi, ormai padroneggia in testa la classifica Il Giornale con Nino Materi, che regala una pagina intera per raccontare di Jackie Kennedy Onassis. Sfrenata e libertina, ecco la sua faccia nascosta. Si portò a letto tutta la famiglia e mezza Hollywood. E che è? Ma dai! Qualche nome: Warren Beatty, Peter Lawford, Paul Newman, Gregory Peck, Frank Sinatra, William Holden, Marlon Brando. E ci fermiamo qui solo per ragioni di spazio, appunto. Fermiamoci che la carta costa. Dai, su, amici del giornale. Arriva il premio, mi sa, eh? Forza, forza. 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti in questo istante, cari italiani. Allora vi dovete spostare nelle nostre città con lo sciopero dei mezzi. Auguri, auguri. C'è lo sciopero, come abbiamo sentito, è di 24 ore, quindi non fate un bel respirone. E via, buttatevi nel traffico. Allora, non è che gli italiani negli ultimi anni abbiano mostrato grandissimo attaccamento all'istituto del referendum, però la Lega ci prova. Mancano ancora pochi giorni, credo, per raccogliere le firme per 6 referendum che il partito di Salvini vorrebbe promuovere. Ieri, tra l'altro, abbiamo sentito Forza Italia ha dato appoggio con la firma a 2 di questi referendum. Non possiamo parlare di tutti e 6, anche se li cito, ci concentreremo su un paio, quelli relativi all'immigrazione, diciamo così, o comunque al rapporto con le popolazioni straniere. Però li cito tutti e 6 referendum. 6 referendum sono: 1, abolire le prefetture; 2, legalizzare la prostituzione; 3, abolire la legge Mancino sui reati di opinione; 4, abrogare la legge Fornero. Su questo c'è stato l'appoggio di Forza Italia. Come l'appoggio di Forza Italia è arrivato sul 5° referendum: ripristinare il reato di clandestinità. E 6, infine, abrogare la norma che apre i concorsi pubblici anche agli extracomunitari. Ecco, vorrei con i miei 2 ospiti concentrarmi soprattutto su questi ultimi 2, il ripristino del reato di clandestinità e l'abrogazione della norma che apre i concorsi pubblici anche agli extracomunitari. Voglio salutare Nicola Molteni, deputato della Lega, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Così come saluto Khalid Shawki, deputato del Partito Democratico e responsabile immigrazione del partito. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, Molteni, sai che mi ha incuriosito? Vabbè, il reato di clandestinità, poi ne parliamo, è abbastanza chiara la vostra posizione. Lo aveva inserito Maroni, è stato abolito da questo governo, da questo Parlamento, diciamo, quindi con il governo Renzi. Però mi ha incuriosito molto questa cosa dei concorsi. Che fastidio danno gli stranieri nei concorsi pubblici? Ma innanzitutto diciamo che lo strumento del referendum, e colgo l'occasione e vi ringrazio che ci date per poter parlare di questi referendum, colgo l'occasione per invitare tutti coloro i quali ci stanno ascoltando per andare a firmare. Mancano ancora pochissimi giorni. Su alcuni di questi referendum siamo alle soglie delle 500.000 firme, per cui così invito chi non l'avesse ancora fatto a potersi si può andare nei comuni esatto, e poter firmare. Perché il referendum, o meglio la raccolta di firme per il quesito sul referendum dei concorsi pubblici per gli stranieri? Perché io credo, e noi crediamo, che un paese come il nostro, che ha 3 milioni di disoccupati, che ha altri 3 milioni di cittadini che sono disoccupati e che neppure hanno intenzione di cercarsi il lavoro, un paese come il nostro che ha 100.000 ragazzi, dati dell'Istat dell'altro giorno, che fuggono perché non trovano condizioni di lavoro nel nostro paese, io credo che con un livello di disoccupazione come questo, il 50% dei giovani dai 14 ai 24 anni non trovano lavoro. Cioè, ma prima gli italiani, voi dite, prima noi, gli italiani. Diciamo, in un contesto come questo, credo che sia assolutamente folle e irragionevole pensare di poter aprire il concorso pubblico, attenzione, non allo straniero cittadino, perché se fosse cittadino italiano ci mancherebbe altro. Beh, chiaro, ma a quel allo punto... straniero... Esatto, perché se fosse cittadino italiano il problema non si porrebbe, quindi tanto per sgombrare il campo da accuse di razzismo in merito a questo referendum, stiamo parlando della possibilità di poter aprire i concorsi pubblici per alcune categorie di lavoratori, penso ad esempio agli impiegati nelle amministrazioni pubbliche, penso ad esempio agli infermieri, ne sono esclusi alcuni, tipo questi concorsi pubblici non possono essere aperti ai concorsi della polizia piuttosto che della magistratura, a coloro i quali da stranieri hanno un permesso di soggiorno di lunga durata oppure hanno ottenuto la protezione internazionale o hanno ottenuto lo status di rifugiato pubblico. Quindi non stiamo parlando di cittadini italiani, stiamo parlando di soggetti che hanno acquisito nel corso del tempo dei permessi di soggiorno di lunga durata ma che non sono assolutamente italiani. Pensare di aprire in un momento come questo di crisi di disoccupazione evidente per i nostri cittadini, la possibilità di poter partecipare a... Ah, ma è chiaro, pubblici, è chiaro, insomma, volete dare la precedenza agli italiani, insomma, da questo prima punto di vista è molto... Italiani, sì, chiaro, anche i cittadini italiani, come vedete, quelli che magari fanno il percorso e sono nati all'estero. Sciauchi, ma lei, mi tolgo la curiosità, lei ha la cittadinanza italiana? No. Beh, sì. Quindi non sarà in Parlamento. No, vabbè, certo, può partecipare quindi al concorso pubblico, insomma, in questo caso, insomma, è tranquillo da questo punto di vista. Che ne pensa di questo referendum? Partiamo da questo, poi sul reato di clandestinità, tanto so che sarete sicuramente ben più opposte come posizioni, ma è davvero folle dire prima gli italiani anche dei concorsi pubblici? Beh, intanto è una legge europea che noi abbiamo recepito per evitare delle infrazioni, perché nella stragrande maggioranza dei paesi europei c'è un tema di merito, cioè non si possono discriminare le persone sulla base della loro cittadinanza. Parliamo di persone che vivono qui in Italia da almeno 5 anni, che hanno già una carta di soggiorno a lunga durata e quindi persone che hanno ampiamente dimostrato una piena integrazione, che hanno... vivono e lavorano in Italia, hanno fatto i test di italiano, conoscono la lingua italiana. In parte si parla di stabilizzare dei precari che già lavorano dentro la struttura pubblica, cioè noi abbiamo già infermieri e personale che lavora negli ospedali, nelle scuole, che non era italiano. E poi ovviamente parliamo di aprire i concorsi sulla base di merito, di talenti, cioè io non capisco perché noi dobbiamo essere orgogliosi degli italiani che a Londra ogni tanto esce fuori una notizia, o un ricercatore ha vinto un premio italiano a Londra o negli Stati Uniti eccetera, e perché dobbiamo sottrarci la possibilità di avere nelle nostre strutture pubbliche personale competente con talenti che può solo migliorare il servizio e senza togliere nulla a nessuno. Cioè il fatto è che insomma c'è un'ipocrisia di fondo, perché non si capisce perché gli immigrati devono essere solo quelli che spazzano per strada, raccolgono i pomodori, quando abbiamo degli immigrati che magari appunto sono degli ottimi, sì, medici, sono degli, e che possono solo migliorare il servizio su una base di concorso pubblico, quindi senza sottrarre nulla a nessuno. No, ma è chiaro, la sua posizione, cioè il concorso pubblico dovrebbe valutare il merito di una persona, che sia poi di quale cittadinanza, chi se ne frega, se soprattutto va nella pubblica amministrazione, che quindi lo Stato dovrebbe migliorare la vita di tutti noi. Molteni, effettivamente c'è la posizione di dire prima gli italiani e basta, però voglio dire, ma se c'è uno che viene dal Giappone, per esempio, no? Ed è bravissimo, ed è giapponese, ma che fastidio dà, se, non so, se vince un concorso? No, due cose, io direi. Primo, appunto, devono essere cittadini. In questo caso noi non stiamo parlando di cittadini, ma stiamo parlando di tutt'altro. E quindi apriremo poi a tutto il dibattito, che non credo che sia il caso di fare adesso, sul tema della cittadinanza. Qua non stiamo parlando di cittadini, perché se fosse... No, chiaro, di extracomunitari, titolari, sì, del permesso di soggiorno europeo. Un permesso di soggiorno provvisorio che potrebbe... ho capito, ma se ci fosse, appunto, se ci fosse... Che potrebbe anche essere, ma certo, revocato, che sono in Italia da un periodo, da un lasso di tempo... Ma se scusi, breve, se viene revocato, nel momento in cui viene revocato deve lasciare il paese, quindi perde, immagino, poi si fa un meccanismo per cui se viene revocato perde il posto di lavoro, non potendo, esatto, più stare in Italia, che, no? Esatto, ma io credo che in questo momento quelle poche occasioni di lavoro debbano essere riservate appunto a quei talenti, prima si parlava di talenti che italiani volano via, ai talenti, cioè un discorso proprio di orgoglio, di orgoglio nazionale, proprio è un discorso di difesa dell'occupazione nazionale. Sì, non avessimo 3 milioni di disoccupati, non avessimo il 50% di giovani cittadini italiani che non trovano lavoro, potremmo pensare di dare lavoro, occupazione a tutto il mondo. Purtroppo in una condizione come questa noi facciamo non una si politica può fare. Di difesa ma è chiaro, Shaoqi, la questione è molto chiara, dice è una difesa dell'occupazione nazionale, questa è la motivazione che spinge i leghisti, Shaoqi. Beh, no, è una visione, diciamo, abbastanza antica, perché se gli altri paesi europei, e cito solo gli europei, avessero fatto lo stesso ragionamento per gli italiani all'estero, avremmo altro che 3 milioni di disoccupati. Cioè il mercato del lavoro si basa su altre logiche, non è che si basa sull'etnia o sul sangue o sul passaporto. E stiamo parlando di società che sono ampiamente cambiate, di persone che hanno diritto alla permanenza a tempo indeterminato in Italia, che hanno già dimostrato abbastanza, che forse noi, cioè con questo ragionamento di chiusura in questo modo, facciamo torto innanzitutto agli italiani, facciamo torto ad avere degli ospedali migliori in nome di una pseudo etnia, di una pseudo nazionalità, dove di fatto buttiamo via tutto quello che invece è la ricchezza che ha portato l'immigrazione. Cioè quello che Molteni continua a non voler dire è il fatto che si parte già con un pregiudizio, che lui infatti ha detto che poi se gli viene revocato il permesso, ma perché bisogna partire già in negativo pensando che chi arriva qui ha un permesso di lunga durata, quindi tutti i requisiti, dopo 5 anni di lavoro, ha pagato le tasse, è una persona che per forza può sbagliare o non andare bene? Vale per tutti questo discorso. Quindi noi abbiamo un principio in Italia di uguaglianza, sì, grazie a Dio, di merito, come diciamo tutti i giorni, e quindi a questo punto non dico che uno arriva e il domani ce lo ritroviamo già a guidare un autobus, ma noi abbiamo una legislazione adesso dove addirittura prima i non italiani non potevano guidare gli autobus, sì, vero, non potevano lavorare nelle poste, non cambiato. Potevano quindi siamo veramente indietro, non stiamo parlando adesso di fare chissà quale rivoluzione, ma di allinearci a una visione europea diciamo che ha portato solo bene a quelle società. Comunque diciamo uno di questi referendum è proprio questo, cioè che la Lega sta raccogliendo le firme appunto per abrogare la norma che ha aperto i concorsi pubblici agli extracomunitari. Un altro dei referendum sul quale ci concentreremo dopo la pubblicità tra qualche minuto è il ripristino del reato di clandestinità, o meglio, visto che i referendum sono abrogativi, si vuole abrogare quella legge che ha abolito il reato di clandestinità. Vabbè, insomma, per essere più chiari, si vuole ripristinare il reato di clandestinità, voluto già dalla Lega qualche anno fa, su cui il dibattito è sempre molto acceso, perché c'è chi dice il reato di clandestinità è un qualcosa che serve, è un deterrente all'immigrazione illegale, c'è chi dice assolutamente no, anzi il reato di clandestinità non è stato assolutamente effettivo e produttivo, non ha portato dei risultati concreti. Ripartiremo con Nicola Molteni e Khalid Shaukhi tra un attimo, anche con le vostre telefonate se volete, 800 24 00 24. Parleremo anche poi in chiusura di un tema legato al carcere, alla droga, e che avete visto sui giornali, vale a dire il ricalcolo delle pene per molti spacciatori, e su questo anche la Lega, ho letto Matteo Salvini in un'intervista oggi sui giornali dire questa decisione è una vera porcata. 24 mattino. Eccoci, ci siamo, alle 8:37 minuti, parliamo dei sei referendum, in particolare di due di questi sei referendum promossi dalla Lega. C'è chi mi scrive: ma insomma, cosa prevede la legge sui concorsi pubblici? Quella vale, appunto, va bene, certo quella vale, ma i referendum, le firme per il referendum sono proprio raccolte perché chi le raccoglie vuole abrogare una legge, caro ascoltatore. Siamo con Khalid Shaukhi, responsabile immigrazione del Partito Democratico, e con Nicola Molteni della Lega, e anche con gli ascoltatori vorrei sentire Marco da Prato. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno. La sento malissimo, distante, dov'è? C'è un auricolare, guida. Sono in viva voce, provo a mettere invece. Dica. Mi sente meglio adesso? Molto bene, dica. Perfetto. Allora, io volevo dire al nostro amico leghista, io li sento sempre parlare di meritocrazia, di eliminazione delle regole, lacci, lacciuoli, questo e quell'altro. Ora, io dico questo, ma se una persona merita, che cosa ce ne importa di quale sia la sua cittadinanza? Io sento sempre parlare di, appunto, meritocrazia, ma quando riguarda gli altri campi. Il mio campo deve essere sempre difeso, perché io sono italiano, perché io sono lombardo, perché io sono cinese e così via. Vabbè, insomma, a un certo punto, molto chiaro, dice chi se ne frega, se uno è bravo chi se ne frega. Volevo dire che se i concorsi pubblici, e questo è il vero problema, vengono dati con metodo mafioso, bene, questo è il vero problema. Ritorniamo a questo, ma se uno merita, per quale motivo non deve accedere a un posto sulla base del fatto che ha titoli e qualità migliori di evidentemente un italiano? È chiarissimo. Vorrei sentire anche Hassan da Verona. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Anch'io penso di partecipare oggi a questo programma molto interessante che segue tutti i temi sociali. No, sentivo prima Salvini, penso, che ha parlato che... No, non Salvini, Molteni, va bene. Molteni, scusa. Tanto lo stesso, la stessa idea avevano tutti e due. Nel senso, immigrati, dalla legge Martelli a oggi è passato quasi un quarto di secolo, ancora si parla di come fare con questi immigrati, ma veramente non so se appartengono all'Italia questa gente che continua a parlare di immigrati, di isolarli nel sociale. Noi abbiamo superato una tappa, come si dice, l'integrazione sociale, adesso si parla oggi come oggi, si parla di inclusione sociale a tutti i livelli, perché questi immigrati, guardate che non salvano l'Italia oggi, perché siamo stati salvati economicamente, oggi ci sentiamo il dovere di rappresentare l'Italia, siamo cittadini a tutti i livelli, oggi siamo ancora in Europa, si sente ancora di parlare come mettiamo questi immigrati di qua e di là, ma noi siamo italiani a tutti gli effetti. Beh, insomma, siamo italiani, ma lei, Hassan, per esempio, è passaporto italiano? Allora lei può per Molteni, come per tutti, come per la legge, accedere ai concorsi pubblici. Però Molteni, qua io vorrei parlare anche un attimo dell'immigrazione clandestina. Posso però fare un esempio che credo che sia assolutamente calzante rispetto a quello che si sta dicendo? Noi abbiamo in Italia, e così spiego anche a Shaukhi che forse non funziona come ha detto lui prima, in Italia abbiamo 60.000 lavoratori italiani che ogni giorno oltrepassano la frontiera e vanno in Svizzera a lavorare, sono i cosiddetti lavoratori frontalieri. Questi sono lavoratori di qualità, sono lavoratori che hanno competenza, che hanno preparazione e che vengono assunti in Canton Ticino, ad esempio. Sa qual è la differenza rispetto ed è il motivo per cui noi chiediamo che questo referendum venga votato per impedire la partecipazione ai concorsi pubblici di stranieri, sì, che non sono cittadini, sì, lo ripetiamo, sì, stiamo, certo, parlando, certo, di, certo, che non sono cittadini, che sono in Italia da 4-5 anni. La differenza sa qual è? Che in Italia abbiamo una disoccupazione giovanile al 43%, abbiamo una disoccupazione generale al 13%, in Svizzera, dove i lavoratori frontalieri italiani vanno a lavorare, c'è una disoccupazione del 3%. Ah, allora, ecco, quindi dico, dice, tutelare allora prima gli italiani, dico, vabbè. Allora io dico a chi ci sta ascoltando, da parte nostra questa è una scelta meramente politica, non capisco perché l'Europa debba imporre, ed è, sì, il motivo per cui noi vogliamo cambiare questo tipo di Europa, perché giustamente questa legge arriva dal recepimento di una direttiva comunitaria. L'Europa ci dice voi dovete fare così. Io credo che se è possibile cambiare l'Europa, ma infatti voi fate la anche la possibilità di poter recuperare la nostra. Ah, ma certo, avete fatto anche la campagna elettorale su questo. Però andiamo un attimo sulla questione Khalilshauki, perché il Parlamento ha votato, ma anche su spinta del governo, avete abolito il reato di clandestinità? Ma è perché intanto è una bandierina messa lì dalla Lega nei suoi anni più, insomma, in cui Maroni esercitava il suo cattivismo al Ministero degli Interni, una bandierina puramente ideologica che non ha portato nessun risultato, anzi, se noi vediamo i dati, le persone espulse dopo quella norma sono inferiori a quelli precedentemente espulsi, ha solo intasato i nostri tribunali e ha criminalizzato migliaia e migliaia di persone che pochi anni prima erano stati regolarizzati dalla stessa destra, perché i cosiddetti clandestini non erano altro che le persone che lavoravano in nero, nelle case, nei campi agricoli, nell'Expo, eccetera. Quindi una norma inutile, tra l'altro dichiarata incostituzionale perché sproporzionata, perché tu non puoi criminalizzare una persona per il fatto che non ha commesso nessun reato, non ha rubato, eccetera, è arrivato in modo irregolare, puoi dargli una sanzione amministrativa. Nel caso in cui non lascia il paese, a quel punto hai tutto il diritto ovviamente di punirlo in modo più severo. Quindi una norma inutile, costosa per il nostro paese, una bandierina che la Lega ha provato a mettere e che non ha portato alcun risultato, e in più dichiarata incostituzionale perché sproporzionata e figlia di quel diritto speciale che la Lega Nord in questi anni ha voluto introdurre nei confronti degli immigrati, dipingendo l'immigrazione tutta come, sì, criminale, come un danno per l'Italia, come quelli che ci rubano lavoro, e omettendo di dire semmai che l'immigrazione adesso porta nelle casse dello Stato 13 miliardi all'anno, che abbiamo più di 1 milione di badanti nelle nostre case che assistono le nostre nonne, eccetera, omettendo di dire che questa però appunto, l'immigrazione regolare, ma che anche quelli irregolari semmai devono fare una legge per capire come far emergere il lavoro nero, non semplicemente punirli mandandoli in un carcere che tra l'altro è già un disastro per quello che è. Se qualcuno commette un reato, ruba, spaccia, eccetera, sono il primo a dire che va punito, ma se noi non abbiamo una legge sull'immigrazione dice, non può civile essere reato solo il fatto di entrare nel territorio. Però vorrei capire, Molteni, perché voi è il cattivismo di Maroni che ritorna, per usare le parole di Sciauchi, nel volere ripristinare questo reato? No, tutt'altro, tant'è che l'affluenza ai banchetti e ai comuni per poter firmare questo referendum è a dir poco impressionante. Ciò che però fa confusione e dimostra di non conoscere bene il problema. Innanzitutto il reato di immigrazione clandestina non è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, altrimenti non si capirebbe il motivo per cui l'hanno cancellato. Probabilmente ciò che si confonde con l'aggravante che è stata dichiarata incostituzionale. Invece il reato di immigrazione clandestina era perfettamente legittimo con una sentenza, la 210 del 2010, quindi il reato era perfettamente, sì, però che cosa prevedeva? Si davano una sanzione che nessuno pagava, di fatto si aprivano dei fascicoli. Che il reato di immigrazione clandestina, che tra l'altro è presente nella stragrande maggioranza dei paesi europei, negli altri paesi prevedeva addirittura il carcere, da noi non prevedeva il carcere, quindi non intasa le carceri, secondo errore espresso prima da Ciocchi, e soprattutto la competenza non è dei tribunali, ma dei giudici di pace. Terzo errore, quindi non ha intasato. Ma guardi, mi scusi, io ricordo Molteni, mi perdoni, io ricordo sempre che anche a questi microfoni il procuratore capo di Agrigento, che è quello che gestisce molti sbarchi per competenza territoriale, disse: io ho aperto migliaia di fascicoli per reato di immigrazione clandestina quando arrivavano, e poi sono fascicoli che non portano a nulla, perché, cioè, voglio dire, i soldi non li hanno per pagare la sanzione amministrativa, impegno dei pubblici ministeri perché è un fascicolo, però poi dopo li chiudiamo dopo un po', perché cosa facciamo? Il reato di immigrazione clandestina prevedeva una sanzione amministrativa da 5-10 mila euro, ma soprattutto prevedeva quello che era la misura che a noi interessava, cioè la misura dell'espulsione. E la misura dell'espulsione, l'espulsione diretta, l'espulsione coatta, questa è l'espulsione complementare rispetto a quella amministrativa. Noi oggi abbiamo un doppio binario, avevamo prima della cancellazione del reato di immigrazione clandestina l'espulsione amministrativa attraverso il cosiddetto foglio di via, quindi l'intimazione all'immigrato regolare presente e entrato illegalmente nel nostro paese ad allontanarsi. È evidente che quel tipo di sanzione non ha funzionato. Certo. Si è introdotta, ma perché ce lo chiedeva anche l'Europa ed era consentito farlo attraverso una direttiva, la direttiva rimpatri, sì, la procedura dell'espulsione giudiziaria, quindi quella diretta, questo è il motivo coattiva. È il motivo per cui volete ripristinarlo, è proprio questo, perché comporta un'espulsione. Allora, insieme a Khalid Shawki e Nicola Molteni stiamo discutendo dei referendum della Lega, soprattutto quelli per la reintroduzione del reato di clandestinità o quello che impedisce e vorrebbe la Lega agli extracomunitari a partecipare ai concorsi pubblici. C'è però un'altra notizia che è piombata ieri in redazione, che oggi titola, per esempio, fa titolare così al giornale: Renzi e Alfano liberano migliaia di spacciatori. La vicenda del ricalcolo delle pene per chi è in carcere dopo che parte da Fini Giovanardi, la legge sulla droga è stata giudicata incostituzionale. Io voglio salutare Riccardo Arena, che conduce tra l'altro su Radio Radicale Radio Carcere il martedì alle 21, giovedì alle 19.45. Questi gli orari, giusto Arena? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ciao Alessandro. Allora, intanto insomma, si inserisce in questo discorso, perché ti abbiamo chiamato al volo? Perché oggi, per esempio, ho sentito Salvini, o meglio, ho letto in un'intervista, parlando appunto dei referendum, parlando di immigrazione, e dire: è inutile negare, molte delle persone in carcere per questi reati, in gran parte sono anche straniere, dice: è una vera e propria porcata, liberiamo spacciatori, liberiamo criminali. Intanto, come è stata presa, secondo te, nelle carceri italiane questa notizia? Ma questa notizia deve essere ancora un pochino metabolizzata, nella misura in cui è una sentenza delle sezioni unite, quindi definirla porcata mi sembra un attimino eccessivo, e abbiamo soltanto il dispositivo che dice sostanzialmente che in base a una sentenza della Consulta del 2012 e quella recentissima del 2014 si deve applicare anche è condannato il divieto previsto dalla legge Fini Giovanardi di prevalenza dell'aggravante sull'attenuante. Vabbè, una cosa molto tecnica, comunque sia, sta di fatto che dovrebbe funzionare più o meno così. Oggi chi è condannato per reato di droga leggera potrebbe vedersi riconosciuto in sede di esecuzione, con incidente di esecuzione, potrebbe vedersi riconosciuta il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Mm-hmm. E questo di fatto potrebbe determinare in effetti l'uscita dalle carceri un po' prima di diversi spacciatori, di piccoli spacciatori, per droghe leggere parliamo. Sì, certo, si parla di 4-5 mila, però qua è difficile. È difficile, perché un tempo si diceva 10 mila, no. Insomma, bisogna fare i calcoli delle pene, che sono cose tecnicamente non facili. È abbastanza complicato. Però attenzione, definire porcata una sentenza di sezioni unite della Cassazione. Vabbè, eccolo qua, Rodolfo Sala lo intervista su Repubblica: Follini è una follia, Salvini dice, e anche una porcata. Così inizia l'intervista Matteo Salvini. Non lo so, Shawki, tra l'altro Salvini dice: tutta colpa del governo Renzi Alfano per questa legge ipocrita e democristiana, il giornale che vi attacca. Insomma, liberate gli spacciatori, Shawki. Ma capisco, la campagna elettorale è finita, e ricordo che la Lega Nord, se l'ultima elezione aveva preso l'11, adesso è il 6, e quindi se continuano così temo che e non avevano capito che semmai i problemi degli italiani sono tanti altri. Ora il tema della giustizia è un tema serio, va affrontato il fondo della giustizia, ma non si fa avendo una legislazione o proibizionista o solo che vede solo nel carcere l'unica pena possibile. Questo è una è la propaganda di una Lega Nord che sta cercando di imitare altri movimenti estremisti in altri paesi europei. Per fortuna in Italia non ha attecchito, e il risultato elettorale lo dimostra, e quindi penso che sta cercando in qualche modo di raschiare il barile lanciando questi slogan. Ci sono temi molto seri, vanno affrontati, dobbiamo parlare delle pene alternative, dobbiamo parlare dell'utilità o meno di aver appunto introdotto il carcere per anche il tema appunto del piccolo spaccio eccetera, e capire qual è la soluzione più utile al paese, non semplicemente da utilizzare in campagna elettorale, perché altrimenti una campagna elettorale infinita che non fa il bene dell'Italia, e soprattutto gli italiani hanno già detto che tutto quello di cui abbiamo parlato oggi è, da parte della Lega Nord, è un'impostazione mirata sulla paura, mirata su il parlare alla pancia delle persone senza proporre proposte. Ecco, su questo, la paura, Nicola Molteni, sempre Salvini in questa intervista oggi dice 10.000 spacciatori liberi, vabbè la cifra in realtà va verificata, e nella stragrande maggioranza stranieri, significa una cosa sola, migliaia di vite umane in pericolo. Non è raschiare appunto nella pancia degli italiani questo? Ma no, mi consenta di dire che il Partito Democratico si conferma essere da un lato il partito degli immigrati e adesso il partito degli spacciatori. Guardi che il problema è un problema serio, ha perfettamente ragione Salvini, questa sentenza è una sentenza sciagurata. Perché? Perché il combinato disposto della sentenza della Cassazione di ieri, della sentenza della Corte Costituzionale che è entrata a gamba tesa sulla Fini Giovanardi, sulle droghe, e la legge sulla droga approvata dal Parlamento, non dalla Lega. La Lega è stata l'unica forza pubblica sulle droghe che noi non abbiamo approvato, votata dal Partito Democratico, votata anche dal collega Ciauchi, che depenalizza sostanzialmente il reato di piccolo spaccio, cioè si stabilisce per il reato di piccolo spaccio la pena fino a 4 anni, quindi non ci va in carcere nessuno. Il combinato disposto di questi tre passaggi crea un disastro, lei dice. Normativi, crea la possibilità che siano 4, 5 o 10.000, che è il numero di coloro i quali oggi sono spacciatori in carcere per i reati di piccolo spaccio, che potrebbero uscire. Si afferma che cosa? Che per il Partito Democratico il problema del sovraffollamento delle carceri lo si affronta con gli indulti. Così, con gli indulti. Io voglio ricordare con gli indulti o con gli indulti mascherati, io voglio ricordare che nell'ultimo anno, negli ultimi 12 mesi, il Partito Democratico con Alfano hanno approvato 4 decreti. Ma fatemi sentire. No, ma certo, questa è la posizione, diciamo, politica. Fatemi chiudere, Riccardo Arena, tu che conosci molto bene il mondo delle carceri, e possiamo definire un indulto mascherato, come dice Molteni, questo? Questa sentenza di sezioni unite? Sì, sì, l'effetto di questa sentenza. Ma no, questa sentenza, attenzione, l'indulto è un meccanismo automatico, insomma, generalizzato. Ha già un indulto mascherato, cioè un qualcosa che no, è combinato no, disposto. No, assolutamente no, assolutamente no, perché questa sentenza delle Nazioni Unite, da quello che capisco dal dispositivo, le motivazioni devono essere ancora depositate, bisogna leggerle, dal dispositivo si evince che chi è stato già condannato può chiedere al giudice di ricalcolare la pena. Però questo ricalcolo il giudice può benissimo non accettarlo, qui non c'è nessun automatismo, ci sarà un accertamento caso per caso, ci sarà gente che uscirà e gente che non uscirà. Che vuol dire ingolfare ulteriormente anche, non so, i tribunali, se vuoi, però, per il ricalcolo, cioè ci vorrà un lavoraccio, ecco, questo voglio dire. Perché il giudice dovrà essere chiamato a fare questo ricalcolo e il giudice di esecuzione, cioè il giudice, l'incidente di esecuzione si fa dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza, quindi tribunale o corte d'appello. No, ma è chiaro, comunque insomma sarà un po' un casino, ma giustamente c'è stata una modifica di legge, quindi una sentenza a riguardo. Devo velocemente salutarvi tutti, Khaled Ciauchi, Nicola Molteni e Riccardo Arena, grazie, ci sentiamo lunedì, iniziamo alle 7:15 lunedì, ci siamo però, 2 giugno.